credi sia meglio un pompino di stare in piedi mentre rimo. Ehi Rino, prendi il mio amico e vatti a fare un giro. Sono il primo della classe a riciclare tempeste, a riempire piste, ho gli occhi delle mie coriste. Sono il primo delle liste e se fossi figo sarei anche il re delle finestre. Sono il numero 284, ma su un totale di 6 miliardi non è mica un fischio. Fischio a ogni donna che passa, e se poi me la passa non diventa mica passa. Che passa? Sempre Zorba palla, è un faccia a faccia, poi a pugni in faccia, perché non ci si sopporta. Sopra quella porta c'è un cartello con scritto non so dove porta. Mi sogno porta a porta, sfidare in pista Vespa. Preferisce la Vespa o la Panda? Minacciare un panda, far scopare un altro panda, ma solo per la sopravvivenza. Sono quello dell'ignoranza che avanza con una cellula in testa. Oh ma molesta, ti chiedi chi sono? Ti chiedi che faccio? Ma non chiederti un cazzo, è un beat scritto alla ghiaccio. Ti chiedi chi sono? Ti chiedi che faccio? Ma non chiederti un cazzo, sono una stella coperta di fango. Ti chiedi chi sono? Ti chiedi che faccio? Ma non chiederti un cazzo, è un beat scritto alla ghiaccio. Ti chiedi chi sono? Ti chiedi che faccio? Ma non chiederti un cazzo, sono una stella coperta di fango. È solo un cazzo di gioco, gioco poco col fuoco e scopo in moto. Faccio moto come Elio col mito. Ho un sito sul web, è il mic check, faccio farsito. Poi dico l'indirizzo del sito, ho ricevuto un invito da Vito. Mangio bene col bene da sere nere, come ferro la tele, sono tele intere coperte di neve. Scene insane, suole che passeggiano sole. Siamo soli al sole, saliamo solo sul nostro balcone. Il barbone sogna il barbone, Enricone, scene per il caviale in sapore. Sapore di spore, funghette tutte le ore. Oro ore per l'oro e arolò per lavoro. Non volo come volo, abbatto tuoni come abbatta il tuono. Tuono il tuono e sono solo in cielo, tra i tritoni e il tritolo e trito pisolo, insieme al nono nano, tritalo. Ti chiedi chi sono? Ti chiedi che faccio? Ma non chiederti un cazzo, è un beat scritto alla ghiaccio. Ti chiedi chi sono? Ti chiedi che faccio? Ma non chiederti un cazzo, sono una stella coperta di fango. Ti chiedi chi sono? Ti chiedi che faccio? Ma non chiederti un cazzo, è un beat scritto alla ghiaccio. Ti chiedi chi sono? Ti chiedi che faccio? Ma non chiederti un cazzo, sono una stella coperta di fango. Ti chiedi chi sono? Sono solo ciò che sono. Sono un suono buono quando non sono cattivo. Vivo in giro ed ammiro ciò che miro col mirino. E tiro San Siro, un pallone ancora vivo. Vivo come scrivo, viva la viro con cui scrivo. Scrivo le viva per lo scriva con cui vivo. Convivo, compare, amare, vorrei chiamare l'amore. Da ammirare al mare il costume, è un fiume che sale verso la foce del sale, verso Ale Ale. Come dove vado a bere, sono copie sincere come al museo delle cere. Sono vere le vere e nere le tele di fiume. Ti chiedi chi sono? Ti chiedi che faccio? Ma non chiederti un cazzo, è un beat scritto alla ghiaccio. Ti chiedi chi sono? Ti chiedi che faccio? Ma non chiederti un cazzo, sono una stella coperta di fango. Ti chiedi chi sono? Ti chiedi che faccio? Ma non chiederti un cazzo, è un beat scritto alla ghiaccio. Ti chiedi chi sono? Ti chiedi che faccio? Ma non chiederti un cazzo, sono una stella coperta di fango. Ti chiedi chi sono? Ti chiedi che faccio? Ma non chiederti un cazzo, sono una stella coperta di fango. Ti chiedi chi sono? Chiedi che faccio, ma non chiederti un cazzo, è un beat scritto alla ghiaccio. Credi sia meglio un pompino? Bene, lo credo anch'io. Come va? Sì, sì, bene, sì, sì, sì, bene, bene, bene, no, no, bene, bene, bene, mi sento bene, mi sento bene. Non ho neanche spaccato la faccia a mia nonna stamattina, bene, quindi migliora a vista d'occhio, bene, sto da Dio. Devo dire che sto bene, bene, anche stamattina mi sono alzato, ho guardato il mondo e ho detto,